fiducia in me. Con un patto noi ci consacreremo, senza gli abiti, senza affanni, incontro ai viaggi dell'immaginazione. Sembra casa mia, sembra pace qui. Sembra casa tua, sembra nostra complicità. Il sogno di sempre su questo pianeta. Solo noi due, spirito e corpo disgiunti, poi in un istante congiunti. Ma io mi sento il sangue pulsare in te. Sembra casa tua, sembra nostra complicità. Il sogno di sempre su questo pianeta. Sento il sangue pulsare in te.